I Bi Ti Fi Gi Hi Chi Di Vi Ri Zi Si Shi Si Di Ti Di Ri Ri Fi Qi Ki Li Ni Hi Wi Yi.